Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Un grazie a Edo per avervi accompagnato come sempre per mano fino alle ore 19 quando comincia Eclettica. Benvenuti da parte di Giulio Caperdoni con voi tutti i giorni della settimana qua sulle frequenze di Rock FM. Qualche dettaglio? giulio@radiorockfm.com è l'indirizzo di mail, www.radiorockfm.com e invece il sito della radio è il nostro spazio, lo spazio di chi ascolta Eclettica, è myspace.com/eclettica. Nel mese di luglio del 1947, avendo messo da parte circa $50 della mia pensione di reduce, fui pronto ad andare sulla costa occidentale. Il mio amico Rémy Boncoeur mi aveva scritto una lettera da San Francisco, nella quale diceva che dovevo andare a imbarcarmi con lui su un transatlantico che faceva il giro del mondo. Giurava di potermi ficcare nella sala macchine. Io risposi dicendo che mi sarei accontentato di qualsiasi vecchio mercantile, purché potessi fare alcuni lunghi viaggi sul Pacifico e ritornare con abbastanza denaro da mantenermi in casa di mia zia mentre finivo il libro. Lui disse che aveva una baracca a Mill City e che avrei avuto tutto il tempo che volevo per scrivere laggiù, mentre compivamo i passi necessari per trovare la nave. Viveva con una ragazza di nome Lee Ann. Disse che era una cuoca meravigliosa e che tutto sarebbe andato a gonfie vele. Rémy era un vecchio compagno della scuola preparatoria, un francese allevato a Parigi, un ragazzo matto davvero. Non sapevo ancora quanto fosse matto in quel periodo. Così, lui si aspettava che io arrivassi entro 10 giorni. Mia zia era perfettamente d'accordo riguardo al mio viaggio nel West. Disse che mi avrebbe fatto bene. Avevo lavorato così intensamente tutto l'inverno ed ero rimasto troppo chiuso in casa. Non protestò nemmeno quando le spiegai che avrei dovuto fare un po' di autostop. La sola cosa che esigeva da me era che tornassi tutto d'un pezzo. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. Thank you. You know what's gonna happen to you? I am gonna march you over to the zoo and feed you to the yak. Just as soon as I finish this drink. Profumo di Eclettica. È arrivato il momento che in Eclectic dobbiamo fare un po' di ordine. Ci siamo ascoltati due brani, ce n'è ovviamente un altro pronto per partire. A riguardo dei due brani appena ascoltati, Eclectic quest'oggi si è aperta con il duo di origine canadese, del British Columbia per la precisione, di nome Lightning Dust. Forse qualcuno si ricorda il Black Mountain, formazione che seppur di rado negli anni è passata all'interno di Eclectic. I due fondatori dei Lightning Dust, ovvero sia Amber Webber e Joshua Wells, provengono appunto da quella band e hanno deciso di creare un progetto separato assieme, Lightning Dust, come anche il titolo dell'album che è uscito il 19 di giugno per Jack Jaguar. Poi è stata invece la volta di Profumo di Eclectic. Qui ovviamente siamo andati parecchio indietro nel tempo. Siamo andati all'anno 2000, quando questo disco era stato realizzato, anche se poi è stato pubblicato solo nel 2003, per quanto riguarda l'esordio The Headphone Masterpiece di Cody Chesnutt, subito tacciato di immodestia nell'intitolare capolavoro, un disco d'esordio. Ma era questo un album completamente registrato in casa, lo-fi, che conteneva veramente delle grandi tracce, dei grandi semi, a partire da The Sea, del pezzo che poi fu ripreso in Phrenology da parte dei Roots. Purtroppo da quel disco in poi non è stato fatto più nulla, però questo purtroppo non so se abbia un senso o meno. Sono belle anche queste prove singole, questi artisti che escono con un lampo improvviso e poi rispariscono nel buio, lasciandoci un ricordo indelebile. Cody Chesnutt, che ci siamo ascoltati con If We Don't Disagree, che era la traccia numero 11 del secondo dei due volumi di Headphone Masterpiece. E invece è arrivato il momento del brano che stiamo per ascoltarci, una formazione di 7 elementi di Washington, Le Loop, da non confondere con gli italiani Le Loop Garou, che esordiscono con un album dal titolo lunghissimo, un album che sarà nei negozi di dischi solo fra un po', in quanto uscirà l'11 di settembre negli Stati Uniti per Hardly Art, The Throne of the Third Heaven of the Nation's Millennium General Assembly. E questo è il titolo della prova dalla quale ci ascoltiamo We Are Gods, We Are Wolves. Così, dopo aver lasciato il mio grosso mezzo manoscritto, sistemato in cima allo scrittoio, e dopo aver ripiegato per l'ultima volta le mie comode lenzuola casalinghe, me ne andai una mattina con la mia valigia di tela, nella quale erano riposte poche cose essenziali, e partii per l'Oceano Pacifico con i $50 in tasca. A Patterson avevo studiato per mesi le carte geografiche degli Stati Uniti e mi ero letto persino i libri che parlavano dei pionieri, andando in visibilio per nomi come Platt e Cimarron e così via. E sulla carta stradale c'era una lunga linea rossa chiamata strada statale numero 6, che portava dalla cima di Capo Cod dritto fino a Ely, nel Nevada, e da lì scendeva fino a Los Angeles. mi sarei messo sulla numero 6 per tutto il percorso fino a Ely, dissi a me stesso, e intrapresi il viaggio con fiducia. Per raggiungere la numero 6 dovevo salire fino al Bear Mountain. Pieno di sogni su quel che avrei fatto a Chicago, a Denver e poi finalmente a San Francisco, presi la sotterranea della 7ª Avenue fino al capolinea alla 242esima strada. E là salii su un filobus che andava a Yonkers. Nel centro di Yonkers mi trasferii su un autobus che andava fuori e arrivai alla periferia della città sulla riva orientale del fiume Hudson. Se lasciate cadere una rosa nel Hudson, alla sua misteriosa sorgente negli Adirondack, pensate a tutti i posti che essa percorre nel suo cammino mentre va verso il mare per sempre. Pensate a quella meravigliosa valle dell'Hudson. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. To a wild thing. The more you do, the stronger they get, until they're strong enough to run into the woods or fly into a tree, and then to a higher tree, and then to the sky. I was young. Eclettica che sta per volgere al termine, ma è solo la prima parte, ce n'è ancora un'altra, altri 30 minuti sempre per quanto riguarda quest'oggi, quindi 5 puntate a settimana, 5 volumi, così ho deciso di chiamarli, dal lunedì al venerdì fra le 19 e le 20, divisi in due parti di 30 minuti ciascuno. Sto dando questi dettagli perché voglio sottolineare come il tutto sia a disposizione, nel caso non riusciate ad ascoltarlo quando viene mandato in onda, anche in podcasting. I dettagli su myspace.com/eclettica o su www.radiorockfm.com. Ci siamo ascoltati Uncle nel brano Chemistry assieme a Josh Homme e poi è stata la volta dei The Cloud Room che hanno appena chiuso con il pezzo 24 Hour Heartbreak, che è la prima delle quattro tracce del loro nuovo EP in uscita fra qualche giorno, per la precisione il 18 di settembre, grazie alla In Sound, dal titolo Please Don't Almost Kill Me. Questo EP segue il loro album d'esordio che avrebbe dovuto avere un seguito un pochettino più ravvicinato rispetto invece al lungo tempo passato, ma purtroppo l'album che stavano registrando non è che sia andato perso, ma è sicuramente stato rallentato dall'incendio della casa del cantante dei Cloud Room, e si chiude invece con il progetto Throw Me the Statue, ma che già vi ho detto essere semplicemente uno pseudonimo dietro cui si nasconde Scott Riderman, artista che fa base a Seattle. La sua è Lolita. Then we'd lose our heads and we'd still go faster, even on our birthdays.